Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Pochi temi, pochi spunti oggi dalle borse, ne abbiamo però parlato a lungo ieri, che restano su livelli molto alti da inizio anno, ma anche per quello che riguarda Milano dagli ultimi 22 mesi, invariata Milano, praticamente invariata anche Parigi, più 0,15, Francoforte più 0,16, Londra meno 0,1, Dow Jones più 0,04, insomma borse assolutamente stabili. Sui titoli segnalo Unipol più 2,1, Yux Net-a-Porter più 1,50, Tenaris più 1,40 come Banco BPM, Unipol Sai più 1,30 come Saipem. Invece cala e parecchio Mediaset, ne parleremo, meno 5,60, Luxottica meno 2, Terna meno 1,50, Telecom meno 1. Euro su dollaro a quota 1,1911, però attenzione perché oggi parleremo di valute, o meglio di monete, di scambio, per tornare su un tema, lo dico col massimo rispetto, che a me non riesco a eccitarmi come alcuni ascoltatori, e mi riferisco ai bitcoin, quindi quella valuta, quella moneta di scambio parallela, che va per la maggiore soprattutto in Cina. C'è un calo deciso del Bitcoin dopo che il numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon, e il capo economista di Allianz, Mohamed El Arian, hanno espresso forti perplessità sulle valutazioni della moneta virtuale. Si chiama moneta virtuale appunto perché non è fisica, alcuni la chiamano anche criptovaluta, viene scambiata insomma intorno ai $3,600 pochi giorni fa. Per il Nobel all'economia Robert Shiller aveva definito il Bitcoin un classico esempio di bolla da esuberanza irrazionale. Racconteremo anche come si sia innescata questa discesa del cambio, perché lì c'entra la Cina, il paese, i due terzi degli scambi avvengono in Cina, che ha deciso di regolamentare in maniera più stringente le piattaforme di scambio della valuta digitale e le cosiddette ICO, Initial Coin Offering, cioè sono quelle che mirano a raccogliere finanziamenti attraverso le monete digitali. Il 70%, dicevo, degli scambi si realizza in Cina, dove vengono coniati, tra virgolette, perché è virtuale, circa la metà dei pezzi in circolazione. Attualmente il valore complessivo del Bitcoin, calcolato insomma in maniera non precisissima, intorno ai 100 miliardi di dollari. Quindi, rispetto ad altri mercati, stiamo parlando di un mercato estremamente sottile, neanche paragonabile a quello delle valute classiche e tradizionali. Però che è successo? Che nell'ultimo anno i Bitcoin hanno visto il loro valore salire da $600 a $4,300, adesso sono scesi a $3,600. Ne parleremo in maniera approfondita nella seconda ora del programma. In apertura, che cosa invece? Beh, il discorso di Juncker sul futuro dell'Europa, l'Europa che verrà, il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker davanti alla plenaria del Parlamento ha tenuto un discorso sullo Stato dell'Unione, ha proposto l'applicazione delle clausole passerella per moltiplicare i campi dove basta la maggioranza del Consiglio per approvare provvedimenti legislativi, e ne parleremo perché quella potrebbe essere una rivoluzione vera e propria. E poi ha detto c'è un vento nuovo nelle vele dell'Unione Europea, ora splende il sole. Boh, insomma, adesso mi sembra eccessivamente enfatico Juncker, però siamo al quinto anno di ripresa economica nell'Unione Europea, ha ricordato il ruolo dell'Italia nella gestione dei flussi, elogiato il ruolo dell'Italia nella gestione dei flussi migratori, e poi tributo all'Italia, ha salvato l'onore dell'Unione Europea, Bisogna poi fermare lo scandalo delle condizioni dei migranti in Libia e intensificare sforzi e azioni sui rimpatri. Poi sui temi economici ha detto che serve un ministro alle finanze europeo. Io aggiungo benissimo, basta che non sia tedesco, perché sennò se vogliamo avere un po' il senso della decenza, visto che in questo momento la politica economica europea è stata molto molto molto sensibile ai desiderata, alle desiderata tedesche, e quindi insomma va bene, basta che non sia né una testa di legno e dietro si legga Germania o Deutschland, insomma che sia un vero ministro di finanza europeo. Andando avanti, poi Juncker ha anche detto che l'Unione Europea deve poter agire più velocemente. Comunque ne parleremo in apertura. Poi il salone dell'auto di Francoforte, perché cioè, si parla tanto di auto elettriche, auto ibride, la svolta verso l'elettrico dei grandi produttori tedeschi di auto. Ora la Germania è il principale, quanto a stato di salute in questo momento, paese nel mondo della produzione di auto. Volkswagen, BMW e Mercedes si stanno spostando verso le auto elettriche. Poi bisogna capire se questo ha una sua ricaduta nei modelli presentati al salone. E poi, come sempre, la borsa, dicevo, piatta la giornata, ma alcuni casi di borsa. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ricordo che il programma è trasmesso anche in video attraverso la pagina Facebook. Allora andiamo ai dati di carattere economico. In Gran Bretagna la disoccupazione scende al 4,3%, ed è un livello molto molto basso. Resta debole la dinamica dei salari, la crescita tendenziale è ferma al 2,1%, però anche l'inflazione è bassa. Quindi dal punto di vista dell'occupazione, non del dato economico, la Gran Bretagna continua ad avere una situazione assolutamente invidiabile anche rispetto al resto dell'Europa, non parliamo poi dell'Italia. Ancora qualcuno mi dice la Brexit, no, guardate che la Brexit non c'entra ancora niente, i dati sull'occupazione la Gran Bretagna li aveva buoni anche prima dell'anno scorso. Qualcuno mi dice è veramente irritante il suo anti-Germania, pianta la Barisoni. Non è che sia, è un dato di fatto che la politica economica dell'area euro l'abbia guidata in primis la Germania, e l'unico che ha tentato di avere sul fronte della politica monetaria un atteggiamento diverso, Mario Draghi, l'ha avuto grazie alla sua forza, ma ha dovuto, diciamo, rintuzzare ogni volta gli attacchi tedeschi. Se poi e Draghi può solo parlare di tassi di interesse e acquisto di titoli di Stato e quindi stampaggio di moneta, altro non può fare. Se poi andate a vedere gli ultimi sei anni, chi ha guidato sette anni le scelte di politica economica, austerity o investimenti, è tutto tedesco l'asse, poi con appunto un po' di Olanda a seguire, ma quello è l'asse. Comunque andiamo avanti. L'inflazione invece in Germania, visto che parliamo di Germania, è dell'1,8%, per quello che riguarda invece le valutazioni espresse dal Presidente della Commissione Europea Juncker per il progetto di misure antiscorrerie in primo luogo cinesi, Bruxelles ha detto che è un passo importante l'atteggiamento di Italia, Francia e Germania per misure per controllare gli investimenti esteri, quelle già annunciate appunto dalla Commissione Juncker. Per quello che riguarda invece il salone, vedo che molti mi scrivono sul salone dell'auto di Francoforte, vi arriveremo. Andiamo all'Italia. Anche oggi bene l'asta di titoli di Stato italiani. Il tasso a tre anni scende allo 0,05% per il BTP contro lo 0,23%, quindi uno presta soldi all'Italia per avere zero, anzi anche meno di zero, perché se mettiamo l'inflazione e poi il rendimento lordo, comunque anche il BTP a tre anni come rendimento netto è un rendimento negativo, e anche comunque il BTP a sette anni rende l'1,52%, il BTP a 20 anni è al 2,74%. Sulla manovra finanziaria, ne abbiamo parlato a lungo anche ieri, segnalo un'intervista del presidente Confindustria Vincenzo Boccia all'Ansa durante un forum. Ha detto Boccia: sulla legge di bilancio non abbiamo grandi aspettative, i margini di manovra non sono ampi, le scelte dovranno essere selettive individuando dove mettere le risorse e favorendo la crescita per contrastare disuguaglianza e povertà. Attenzione agli errori di carattere elettorale nella legge di bilancio, perché rischiano di farci fare non un passo indietro ma tre passi indietro. Occorre evitare solo le questioni tattiche ed entrare nel merito dei programmi della politica economica dei partiti. Poi sappiamo che Confindustria ha chiesto un'operazione importante, cioè di concentrare gli investimenti, le risorse sulla disoccupazione, in particolar modo giovanile, a costo anche di partire aggredendo le aree dove questa è drammaticamente più alta rispetto alla media non solo europea ma anche italiana, e mi riferisco al nostro sud. E poi vorrei, dunque, nei giorni scorsi dopo la tragedia di Livorno molti giornali, molti hanno commentato l'uso delle risorse. Sicuramente l'Italia ha delle cifre che non riesce a spendere, inaccettabili: 7,7 miliardi da spendere entro il 2023 per rinforzare argini, costruire scolmatori, casse di espansione per le piene, allargare i canali tombati, tirare su muri di contenimento. Dico che è inaccettabile il fatto complessivamente che su 7 miliardi e 700 milioni le amministrazioni locali e lo Stato ne abbiano spesi solo 114 milioni, cioè l'1,5%. Questo in generale. Poi nel caso specifico di Livorno, però, è interessante notare, per essere anche corretti e non così demagogici, come quello che ha dichiarato oggi l'ingegnere Roberto Pandolfi del consorzio di bonifica Toscana Costa, cioè chi ha realizzato i lavori a Livorno, ha spiegato che tutti i lavori effettuati erano stati effettuati e tenevano conto anche di eventi, diciamo, da quel punto di vista eccezionali, ma non così eccezionali, addirittura che non si vedono nell'arco di un secolo, come quello che è avvenuto a Livorno. Lo dico non per giustificare i soldi che non riusciamo a spendere nel mettere in sicurezza la rete idrica di questo paese, soprattutto a mettere in sicurezza il paese di fronte a pioggia intensa o addirittura anche a pioggia straordinaria, ma per essere precisi in questo caso, ascoltiamo le parole dell'ingegnere Pandolfi: le dimensioni di quello che è accaduto a Livorno non erano neanche prevedibili quando si vanno a prevedere le situazioni più eccezionali possibili. Quando si progettano le opere idrauliche, dalla normativa nazionale via giù, dicendo anche quella regionale, ci sono degli ordini di grandezza di progettazione che prevedono che le opere idrauliche vengano progettate con tempi di ritorno pari a 200 anni, cioè si ipotizza che un evento possa avvenire una volta ogni 200 anni. In questo caso stiamo parlando di un evento una volta ogni 500 anni. È tutta una questione di accettazione del rischio, ma questo vale per qualunque tipo di struttura, non solo per l'idraulica. Quindi chiaramente oltre un certo limite è difficile prevedere quale può essere l'evento. Le casse, ora io non ho i dati sotto, però se sono per un evento di 200 anni, come ha dichiarato anche stamattina il consulente professor Pagliara all'Università di Pisa, stiamo parlando di altezze di pioggia di 150 mm, sono caduti 260 nello stesso periodo di tempo, capisce bene che siamo 100 mm in su, quindi significa una lama d'acqua e 10 cm su tutto il bacino idrografico. Soy el fuego que... No, lo dico anche a chi sta scrivendo al 349-238-6666, non per giustificare l'ingiustificabile, cioè il fatto che vi siano soldi e non vengono spesi. E abbiamo una rubrica il venerdì, la poco invidiabile classifica, che ricorda spesso quanto i soldi non si spendono per l'incapacità, la mancanza di competenze nelle amministrazioni locali, non tutte, ci mancherebbe, locali o regionali, e quindi poi si cerca di, o peggio ancora in alcuni casi, per utilizzarli per fini di consenso del tutto improduttivo, o meglio produttivo solo per chi deve essere rieletto. Però non è questo il caso, perché le proporzioni che lui ha citato, cioè 10 cm più di acqua rispetto al livello considerato eccezionale, cioè una volta ogni 200 anni massimo consentito, obiettivamente, mi scrive un ascoltatore, è come prevedere se le autostrade italiane dovessero essere costruite per prevedere il picco del traffico a Natale o a Ferragosto. Cioè è chiaro che lì si crea un imbuto, non fai un'autostrada a 6 corsie perché c'è il rischio una volta l'anno, ma qui a 6 corsie per senso di marcia, intendo dire. Qui il dato storicamente è ancora più impressionante: una volta ogni 200 anni questo evento ha una, da quello che è la serie storica, capita una volta ogni 500 anni. Andiamo a Strasburgo, il discorso sullo stato dell'Unione. Jean-Claude Juncker, il vento è di nuovo nelle vele dell'Unione Europea, speriamo, ora splende il sole, completiamo tutti i piani della Casa Europea, dobbiamo procedere passo dopo passo, quindi salpiamo l'ancora e avanti col vento nelle vele. Non ho capito, ma l'esempio è una casa o una nave? Insomma, giusto per fare in modo che la casa non vada in mare. Ma al di là della battuta, appunto, molto enfatico, molto soddisfatto Juncker. È chiaro che rispetto a un anno fa, dopo la Brexit, non c'è più il pericolo Francia. La Germania, insomma, va a una rielezione ormai certa di Angela Merkel. L'Italia andrà a elezioni più avanti. Non c'è neanche un rischio, da quello che vediamo, così forte in Austria. Insomma, Juncker festeggia il fatto che a un anno di distanza la situazione si sia rasserenata. Maintenant que l'Europe va mieux, on me dit qu'il ne faut pas surcharger la barque européenne. In questo momento in cui l'Europa va meglio, mi si dice che non bisogna sovraccaricare la barca europea. Ma se non lo facciamo, veniamo accusati di eccesso di prudenza. Stiamo riparando il tetto dell'Europa, ma sia oggi che domani dobbiamo pazientemente, piano dopo piano, passo dopo passo, continuare ad aggiungere dei nuovi piani alla Casa Europa. Per raggiungere questo obiettivo, ora che fa bello e finché c'è bel tempo, perché le nuvole si formano all'orizzonte e si formeranno un giorno e sarà troppo tardi, occorre che molliamo gli ormeggi, salpiamo, allarghiamo le vele e approfittiamo del vento favorevole. Les amarres, mettons les voiles et profitons des vents favorables. La mitica torna dopo l'estate, la mitica Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore, in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. Allora, buonasera a tutti. Vento in poppa o la casa da costruire, insomma, un po' di confusione con gli esempi figurati, però poi arriviamo ai temi ancora più concreti. C'era molto ottimismo, molta enfasi in questo intervento di Juncker. Siamo al quinto anno di ripresa economica, ha detto poi serve un ministro delle finanze europeo e l'Unione Europea deve poter agire più velocemente. Lascio a una successiva domanda invece il tema delle clausole cosiddette passerella. Eccesso di ottimismo o respiro di sollievo, perché un anno fa la situazione era decisamente più cupa? No, direi che non c'è eccesso di ottimismo, perché i dati economici sono quelli lì e quindi grazie al cielo vanno bene, vanno perlomeno molto meglio di quelli che abbiamo visto durante la crisi, e quindi c'è sollievo sotto questo aspetto. C'è anche sollievo per i pericoli scongiurati, Le Pen e compagni, per questa Brexit che per ora è stata metabolizzata in Europa senza creare divisioni. Quindi ci sono una serie di ragioni per dire che questo è un momento positivo per l'Europa e che quindi l'Europa potrebbe e dovrebbe approfittarne per poter ripartire. Da qui a dire che lo farà, e lo farà secondo il modello delineato da Juncker, è tutto da verificare naturalmente, perché anche sulla riforma dell'Eurozona diciamo Juncker ha accolto certi dei tedeschi ma non fino in fondo, ha accolto, ma non fino in fondo, quelle francesi, quindi rischia di scontentare un po' tutti e quindi bisognerà vedere poi come finisce anche sulla fusione dei due presidenti, che ha una sua logica. Parlo del presidente del Consiglio, che è Donald Tusk, il polacco, e della sua presidenza, la presidenza della Commissione europea. Juncker propone di fonderle e anche lì bisognerà vedere che cosa ne penseranno gli stati dal punto di vista della coerenza dell'immagine di un'Europa più unita. Ha assolutamente una logica ineccepibile, da qui a vedere poi se gli stati saranno disposti a farlo, questo è un altro discorso. E poi il ministro unico delle finanze europee, quello mi sembra il cuore oltre l'ostacolo, nel senso che poi tutti siamo d'accordo che avendo una moneta unica e una banca centrale unica ti servirebbe anche un unico ministro alle finanze e all'economia. Il problema poi chi lo elegge, nel senso, è che potere gli diamo. Io ho fatto la battuta prima, basta che non sia tedesco, nel senso che a meno che non vogliamo certificare il fatto che un paese guidi l'Europa più di altri. Vedo che qualcuno mi dice, ma Juncker ha detto prima che bisogna costruire i piani della casa europea, poi che bisogna prendere il largo in mare, una barca a casa si chiama chiatta. Vabbè, non so se questo però è vero, qualcuno deve chiarire anche Juncker. Chiatta in italiano ha anche un'altra espressione, ma non so. Andiamo avanti sulla parte di Juncker. È un cuore gettato oltre l'ostacolo quello del ministro delle finanze, Adriana? No, non lo è, perché è stato Macron a rilanciare l'idea di ministro delle finanze. Si parla da tempo, si parlava anche nel rapporto dei cinque presidenti, tra cui c'era, oltre a Draghi, lo stesso Juncker, quindi l'idea non è affatto nuova. Quello che dice Juncker, è che certamente non crea soddisfazione in Germania, è che lui propone di creare questa figura prendendo il futuro commissario agli affari economici e finanziari e farlo ministro dell'Eurogruppo, presidente dell'Eurogruppo. Questa è un'idea che sicuramente sarà bocciata dalla Germania, perché la Germania diffida da tempo della Commissione accusandola di avere un atteggiamento troppo morbido nell'applicazione delle regole, ma d'altra parte Juncker oggi ha giustamente ricordato che la media del deficit dell'Eurozona ormai è all'1,6% contro il 6,6% di alcuni anni fa, quindi questa presunta interpretazione morbida ha comunque portato a una discesa netta del deficit. Quindi diciamo che ci sono ragioni da tutte le parti. D'altra parte, con questo ministro dell'economia europea, Juncker sicuramente scontenta anche la Francia di Macron, perché Macron vuole sì il ministro europeo, ma lo vuole per rilanciare l'economia, mentre Juncker lo propone con funzioni più simili a quelle auspicate dai tedeschi, cioè facilitatore delle riforme strutturali e coordinatore dei fondi europei in caso di crisi di uno Stato, di recessione. Quindi insomma direi che fa la sua, insomma, gioca la sua parte. La Commissione da sempre fa il mediatore tra le posizioni degli Stati membri e in questo caso lo fa una proposta che scontenterà tutti, come scontenterà l'Est per esempio, perché parla di unità Est-Ovest come necessità imprescindibile per il futuro dell'Europa, ma al tempo stesso dice che i paesi dell'est devono attenersi alle regole europee. Quindi questo non piacerà sicuramente alla Polonia e all'Ungheria. E arriviamo a questo anche dopo il metro della pubblicità, perché ci sono due punti. Uno che può sembrare di carattere tecnico, ma in realtà le clausole passerelle dovrebbero accelerare l'approvazione dei provvedimenti legislativi europei, quindi non è un dettaglio. L'altro invece riguarda l'Italia, perché è vero che ha elogiato il nostro paese, poi ci sono anche le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che era in visita ufficiale a Malta, ma su questo insomma Juncker ha detto grazie all'Italia, però non è che nel frattempo l'Europa abbia ottenuto granché, a parte l'aver ricordato a Ungheria e altri paesi che non possono dire di no alle quote che devono accogliere, e vedremo le sanzioni dopo. E ne parliamo a meteo e pubblicità. Andate in onda 349-238-6666 per sms e whatsapp. 57esimo Salone Nautico dal 21 al 26 settembre a Genova vi presenta State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Allora, prima di arrivare ai migranti, andiamo sulla proposta di Juncker, applicazione delle clausole passerella per moltiplicare, se ho ben capito, Adriana, i campi dove basta la maggioranza del Consiglio europeo per approvare i provvedimenti legislativi. Non voglio entrare nella parte tecnica, due tipi di clausole, una applicabile a tutte le politiche con l'unanimità dei paesi, l'altra legata a settori specifici in cui servirebbe anche una maggioranza diversa, ma l'obiettivo qual è? Così facciamo capire a tutti. È quello di rafforzare il mercato unico, accelerare le decisioni senza riformare i trattati, e quindi questo significa che nelle decisioni soprattutto fiscali si potrà usare la maggioranza qualificata invece dell'unanimità, che blocca da sempre qualsiasi decisione. E invece la parte che riguarda, tu citavi prima l'Est Europa, che riguarda anche l'Italia. Allora, lui, Juncker, ha detto l'Italia ha salvato, a parte che ha parlato anche della Brexit. L'onore. Perché sulla Brexit ha detto la rimpiangeremo la Gran Bretagna, ma anche voi in Gran Bretagna rimpiangerete. L'Unione Europea ha escluso l'adesione della Turchia nel prossimo futuro, voglio anche vedere, insomma. E poi ha detto non è pensabile che nell'Unione Europea muoiano ancora bambini di malattie evitabili, in Romania e in Italia dovrebbero avere accesso alle vaccinazioni senza se e senza ma, appoggiamo le misure nazionali di vaccinazione. Questo è un tema molto dibattuto, abbiamo fatto anche un viaggio alla D24 la settimana scorsa sul tema dei vaccini. E veniamo all'Italia, che ha salvato l'onore dell'Unione Europea. Bisogna fermare lo scandalo delle condizioni dei migranti in Libia. Ho capito, Adriana, ma i soldi? E le sanzioni ai paesi inadempienti? No, vabbè, un passo alla volta, cioè, un passo alla volta, ma comunque ci sarà, cioè presumo che ci saranno. Io queste lodi all'Italia le vedo molto come una sorta di contentino a qualcuno che si è preso. E non sei sola, anche la maggior parte degli ascoltatori, ecco, sta scrivendo sì, una pacca sulla spalla, bravi bravi. E sì, cavoli, sì, vostri. È una seconda dello stesso genere, però non è colpa sua. Quando secondo me lui dice queste cose, per quello che riguarda i fondi, tutti quelli che poteva dare li ha dati. Dopodiché sono altri problemi, sono la riforma del diritto d'asilo, l'eliminazione del principio del paese di primo sbarco, sono quelli i problemi che vanno affrontati prossimamente. E questi li ha messi in conto nella sua agenda, dopodiché sono gli stati membri che decidono, lui propone, non è che possiamo prendercela con Juncker, sono gli stati membri quelli che decidono. E per quello che riguarda le sanzioni, diciamo, ai paesi inadempienti? Per quel che riguarda le sanzioni ai paesi inadempienti sicuramente deve decidere la Commissione, però anche questa è una decisione politica, ha bisogno del beneplacito dei governi. Allora, in campagna elettorale, con la Merkel che ancora deve essere rieletta, probabilmente si preferisce la prudenza, e dopodiché si preferisce anche la prudenza perché almeno questo è quello che dice Juncker, poi bisognerà vedere cosa succederà. Il suo è un messaggio unitario, cioè lui è tra le righe contro l'Europa a più velocità, è per cercare di mantenere l'Europa tal quale è, facendola funzionare meglio. Possibile, non possibile, realistico, non realistico, questo lo vedremo, ma il suo messaggio è sicuramente un messaggio unitario. Allora, nel ringraziare Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, vorrei far ascoltare cosa ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Malta, perché su Juncker ha detto Juncker ha capito, è importante che tutti comprendano che il fenomeno migratorio non è solo un problema dell'Italia o di Malta. Ha detto che Malta ha comunque preso la sua quota di immigranti, altri paesi non l'hanno fatto, e poi ha detto attenzione, dobbiamo assicurare canali legali di ingresso e governare il fenomeno in maniera ordinata, altrimenti, che non sarà sicuramente transitorio, altrimenti lasciamo le chiavi dell'Unione Europea, dell'ingresso nell'Unione Europea ai trafficanti. Noi dobbiamo assicurare dei canali legali di ingresso. È un governo ordinato del fenomeno migratorio, che non è un fenomeno transitorio. La differenza demografica tra Europa e Africa è eloquente. Quello che non possiamo fare è consegnare le chiavi dell'ingresso in Europa ai trafficanti di esseri umani. Per questo occorre stroncare quel traffico e occorre garantire canali legali di ingresso che siano sostenibili dai paesi dell'Unione Europea. E naturalmente, ed è l'aspetto più importante, impegnarsi con forza, anche questo accomuna Malta e Italia, impegnarsi con forza perché migliorino le condizioni nei paesi da cui nascono e transitano i flussi migratori. Dunque, vedo molti messaggi. Allora, Juncker non ha toccato il tema della tassazione diversa da Stato a Stato. Ho capito adesso, ragazzi. Fatto per 13 anni presidente del Lussemburgo, che è uno dei paesi che più si avvantaggia assieme all'Irlanda e all'Olanda di questa sperequazione fiscale intesa come tassazione in Europa, di cui si avvantaggiano moltissimi big dell'information technology, ne abbiamo parlato. La web tax, che però Francia, Spagna e Italia stanno portando avanti come richiesta forte. E insomma, anche Juncker tiene famiglia, tiene casa in Lussemburgo, poi si conoscono tutti in Lussemburgo, quindi è difficile che vada su un tema che non rientra nella sua formazione culturale. E qualcun altro mi dice, ma tutto questo ottimismo, ma sì, ho capito, è un ottimismo, bisogna vedere da dove si partiva. Si partiva dall'anno scorso con il timore che l'Europa si stesse completamente sgretolando, e adesso il timore sembra sicuramente più lontano. Ancora su altri temi non toccati da Juncker, sì, bisogna anche stare attenti, Juncker ha il ruolo che ha e non poteva andare su tutti i temi. Vorrei invece andare sui temi di borsa. Perché? Perché oggi la seduta è particolarmente piatta, meno 0,00, non ho mai capito perché quando è 0,00 ci sia meno davanti, però Parigi più 0,1, Francoforte più 0,2, Londra meno 0,2, Dow Jones meno 0,04, insomma una seduta di quelle assolutamente dimenticabili come indici. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Però poi andiamo anche sui singoli titoli. Partiamo da Apple, perché insomma ha presentato giustamente il decennale, l'iPhone, tutti quanti abbiamo seguito la cosa perché l'iPhone cambiò il modo di concepire da un telefono, diventò un computer che telefona pure. La retorica quasi si è sprecata in questi giorni. Come è andata in borsa? Ma in borsa il titolo sta perdendo più dell'1%, è stato negativo fin dall'inizio. Diciamo che soprattutto il tema anche dei ritardi sulle consegne, quindi su quando i prodotti saranno sul mercato rispetto a quelle che erano le aspettative, stanno in parte influendo. È anche un titolo, per la verità, che nell'attesa, soprattutto dal mese di luglio, con i picchi proprio i primi di settembre, quando è stata annunciata la data della presentazione poi avvenuta ieri, era particolarmente brillante, è arrivato a quotare $164, adesso sta intorno a 159, sotto 160, diciamo. Quindi una giornata negativa, un po' per correzione e un po' per alcuni fattori legati anche alla presentazione di ieri. Ancora, adesso andiamo sui singoli titoli in borsa. Devo dire che da noi a Milano si è messa in evidenza Mediaset meno 5%, Luxottica meno 2,20%, Terna meno 1,30%, Italgas meno 1%, poi Telecom meno 0,80%, Ferrari meno 0,70%, Enel meno 0,60% come Poste Italiane. Mediaset. Sì, Mediaset ha perso il 5%, è significativo come il movimento abbia portato oggi Mediaset ai livelli precedenti alla scalata di Vivendi, cioè all'inizio del dicembre 2016, quando Vivendi annunciò il primo pacchetto del 3% acquistato in Mediaset e poi nel giro di pochi giorni fino al 29%, proprio nel giorno in cui c'è un'udienza, cioè una riunione del Consiglio dei Commissari dell'Agicom per discutere discutere i tempi, diciamo così, della riduzione della quota di Vivendi. Non si sa ancora che l'esito di questo incontro, che dovrebbe essere insomma di verifica e di informativa, ma la sensazione sul mercato, testimoniata anche da qualche studio di qualche banca d'affari, è che l'effetto speculativo su cosa farà Vivendi Mediaset si stia completamente sgretolando, oltre al fatto che siamo a pochi giorni da una semestrale di Mediaset che arriva dopo indicazioni sul mercato pubblicitario europeo, ricordiamo in agosto VPP, ProSiebenSat, per esempio, tutte abbastanza negative sugli ultimi mesi dell'anno. Noi andiamo sul traffico invece adesso e poi gli altri titoli, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Focus Economia. Gli altri titoli, dicevo, oggi presenti sul mercato, al di là della vicenda Mediaset, beh, anche Luxottica risente di notizie specifiche. Sì, assolutamente, questo possibile nuovo approfondimento, ulteriore approfondimento che l'Unione Europea dovrà fare o vorrà fare sulla integrazione tra Luxottica e il gruppo Essilor, il gruppo francese di produzione di lenti, sta creando incertezza sul mercato sui tempi dell'integrazione, ma più che altro sul fatto che l'Europa possa chiedere o no dei correttivi per evitare che ci siano delle distorsioni alla competizione, come sempre avviene quando ci sono delle grandi fusioni tra gruppi dello stesso settore. E non a caso, oltre a Luxottica, che ha perso a Milano, è stata tra le peggiori, ha perso oltre il 2%, anche a Parigi Essilor, la promessa sposa, diciamo così, ha perso il 2,5%, a indicare che questo tema del via libera europeo è un tema sensibile per il mercato. Andiamo ai titoli, anzi, che sono cresciuti: Unipol più 2,40, IUX senza portare più 2,20, Banco BPM più 1,70, Tenaris più 1,60, Buzzi Unicem più 1,30, Unipol sai pure, Moncler più 1, Saipem più 1 e Intesa San Paolo più 0,70%. Devo dire che oggi fronte assicurativo e anche bancario, soprattutto per Banco BPM, poi Generali pure si era mossa bene, sono stati tutti ben intonati. Sì, assolutamente, anche per motivi differenti. Diciamo che Unipol e Unipol Sai risentono di un ritorno d'attenzione per quello che è l'annunciato riassetto del gruppo, con diciamo una forte operazione di pulizia di Unipol Banca che potrebbe poi portare anche un'aggregazione tra Unipol e Unipol Sai, che sono controllante e controllata. Per quanto riguarda le generali, oggi è arrivata l'ufficializzazione di una delle prime dismissioni annunciate da tempo da Generali, cioè quella degli asset olandesi, delle attività olandesi, da cui che hanno originato un incasso per 143 milioni e invece una minusvalenza intorno ai 270 milioni. Le Generali, che avevano annunciato mesi fa la volontà di uscire da 13-15 paesi nel mondo dove sono presenti, con un incasso intorno a 1 miliardo di euro, quindi questo è uno dei passaggi di questa strategia. Altri, Belgio, Olanda, sono altri paesi da cui ci si attende un'operazione a breve. Andiamo sui migliori e peggiori. Allora, qualcuno mi scrive sul titolo Alfio Bardolla. Alfio Bardolla, lo abbiamo spiegato quando si è collocato in borsa. Io non posso, non ho mai fatto in quasi 18 anni di conduzione di commentare i titoli se non su notizie di mercato, ci mancherebbe, la mia opinione sul titolo è del tutto irrilevante. Più 19,60% anche oggi, miglior titolo. Possiamo ricordare cosa fa Alfio Bardolla, cosa produce? Sì, no, è una società di consulenza di trading finanziario, quindi diciamo un'attività produttiva specifica, insomma fa consulenza sul trading, su operazioni finanziarie. È una società che da diverse sedute è in evidenza, tant'è che solo a metà agosto quotava intorno a 3,5 euro, adesso quota a 8 euro, quindi ha raddoppiato la sua capitalizzazione e il suo prezzo di borsa. E a chi mi scrive dico, scusatemi ragazzi, ognuno è libero di investire dove vuole, no? Noi possiamo fare da approfondimenti su settori, su casi specifici perché balzano la cronaca, ma poi ognuno è libero di investire dove vuole. Kaleido Group più 13,80%, ancora la Doria più 7%, Irce più 6,13%, Banca Intermobiliare più 6%, i peggiori Epris meno 7,50, Digital Brothers meno 5,20, Mediaset appunto meno 5%, Poligrafici Editoriale meno 4%. Grazie anche ad Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Ci spostiamo adesso a Francoforte, ma non per parlare di Banca Centrale Europea, né di tassi di interesse, né delle banche tedesche, né della politica tedesca. Ci spostiamo a Francoforte perché si è aperto ieri il salone dell'auto più importante del paese, in Europa sicuramente, ma anche a livello mondiale, più importante nella produzione di auto. E ne parliamo non solo per capire come va il settore, ma per capire, come si dice in gergo, la tendenza, perché c'è una grande, o perlomeno è molto dichiarata, la svolta verso l'elettrico dei grandi produttori come Volkswagen, BMW e Mercedes. Tra l'altro che BMW ha annunciato di preparare il lancio di 12 auto completamente elettriche entro il 2025. Mercedes punta allo sviluppo di due modelli. Volkswagen vuole arrivare alla leadership nel settore con 80 modelli fino al 2030. Diciamo che per ora quello che è certo è che il nemico da abbattere, se mi passa il termine, si chiama Tesla, la californiana Tesla, e quindi il pericolo arriva dalla California. Poi dalle dichiarazioni, infatti, il passo non è così breve e ne parleremo dopo GR24 e poi chiuderemo con il Bitcoin. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sono Enrico Ruggeri, storie molto particolari questa settimana, il Falco e il Gabbiano. Ha rivoluzionato lo spettacolo in questo paese, ma è destinato a essere ricordato soprattutto per un personaggio fantozzi, Paolo Villaggio. Un genio o un impostore? Sicuramente uno destinato a lasciare un segno. Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro. E poi voliamo sulle ali di carta con la storia di un grande amore con un finale terribile, Tosca. JJ Allin, una vita davvero punk che si spinge oltre i limiti, fino a una morte terribile e a un funerale più punk ancora. E poi parliamo di un burbero allenatore con un cuore d'oro, Carlo Mazzone. Tutti i giorni alle 15, naturalmente su Radio 24, il Falco e il Gabbiano. Vi aspetto. Il segnale orario vi è offerto da... Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. State ascoltando un programma offerto da... JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Otto e sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo già molti messaggi su Bitcoin, adesso vi arriviamo, molti a favore. Vabbè, adesso, ancora un minuto di pazienza, perché vorrei andare a Francoforte, dove c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Mario Cianflone. Buonasera Mario. Buonasera, ciao. Ecco, la domanda con cui, diciamo, abbiamo chiuso la prima ora è la seguente. Insomma, tutti annunciano grandi investimenti, Volkswagen, BMW, Mercedes, sulle auto elettriche, 12 modelli per la BMW entro 2025, 80 modelli per Volkswagen fino al 2030, due modelli, una Smart, tipo Smart, l'altro super lusso per Mercedes, ma se ne vede qualcuno al salone dell'auto di Francoforte, oppure sono solo dichiarazioni in versione anti-Tesla, che mi sembra grosso spauracchio in questo momento dei costruttori tedeschi? Allora, prima di tutto dobbiamo dire una cosa: Tesla è uno sparacchio finanziario, ma dal punto di vista dei numeri non è significativo. Tesla vende 80.000 auto l'anno, hanno inevitabilmente timore che la compatta premium, quella che chiamano Model 3, possa avere un successo superiore alle attese, ma si tratta di 400.000 macchine, che nella loro logica e nei loro numeri è assolutamente una cifra ridotta. Le auto elettriche se ne sono viste, se ne vedranno sempre di più, ma soprattutto si vedranno tante auto elettrificate, e questo è il messaggio chiave della zona di Francoforte, ovvero ibride ricaricabili la spina. Ma ben inteso, questo non vuol dire che sparisce il motore termico in tempi brevi, in tempi veloci o scenari come quelli che abbiamo visto annunciati nelle scorse settimane lungo tutta questa estate molto calda che ha, dal punto di vista automobilistico, anticipato il salone di Francoforte. L'auto per molto tempo sarà ancora termica, saranno termiche con aiutate a motori elettrici, saranno tantissime auto elettriche. Citavi le 12 BMW, se ne è vista una anche rinnovata di una delle auto elettriche più vendute al mondo, che è la BMW 3. Qualche giorno fa, fuori al Salone di Francoforte in Giappone, ha annunciato la seconda generazione della Nissan Leaf, che è l'elettrica più venduta al mondo. Quindi lo scenario competitivo si fa assolutamente elettrizzante. Questo è vero, però le dimensioni in gioco sono diverse ed è un momento di trasformazione dell'auto importante. Si fa elettricizzante, se vogliamo stare in elettricizzante, tema. Elettricizzante, allora, molti mi chiedono delle batterie, ma da questo punto di vista la nuova frontiera, se ho ben capito Mario, è l'autonomia fino a 700 km della batteria. Però un'altra domanda ancora: perché Fiat ha deciso di essere presente solo con il marchio Maserati a Francoforte? Con Maserati e Ferrari, perché Ferrari, in questo momento non avevano degli annunci importanti che giustificassero un investimento tale da essere presenti in un salone come quello di Francoforte. C'è state defezioni importanti, non c'è stato Volvo, che tra l'altro ha dominato le cronache automotoristiche con l'annuncio di elettrificare la gamma, e non c'era nel gruppo PSA, c'era soltanto Citroën e la nuova entrata Opel, ma Peugeot PDS non c'erano. Quindi molte case hanno fatto una scelta di valutare gli investimenti in funzione della visibilità dei loro prodotti, e credo che FCA abbia fatto lo stesso conto. Bene, e quindi però ci confermi che tutta sul futuro tutto si concentra sulle prospettive dell'auto elettrica, auto ibrida per la, la precisione, elettrico, ibrida, certo, elettrica, ma nel presente siamo ancora con l'auto, diciamo, a motore classico, per farsi capire da tutti. Grazie, tra l'altro ho visto anche la CEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, che ha chiesto di rinviare dal 2021 al 2030 la data per il taglio del 20% delle emissioni di CO2 nelle auto, ma è una richiesta che arriva appunto da ACEA. Grazie intanto a Mario Cianfloni in collegamento con noi da Francoforte, e andiamo adesso a questo benedetto, maledetto Bitcoin, e quindi tutto il campo di cui Bitcoin è il più famoso, delle cosiddette monete virtuali. Si chiamano virtuali perché non sono fisiche, e quindi sono monete create, diciamo, da un punto di vista digitale. Il numero e il valore di questa moneta non è altissimo, siamo circa a 100 miliardi di dollari come controvalore, però quello che è incredibile è quello che è successo al valore nell'ultimo anno dei Bitcoin. Le quotazioni sono salite da $600 a oltre $4,300. Perché ne parliamo oggi? Qual è la notizia di cronaca? Beh, da un lato, dopo che la Cina ha innescato una stretta regolamentatoria sulle piattaforme di scambio e sulle cosiddette ICO, cioè le Initial Coin Offering, quelle che mirano a raccogliere finanziamenti attraverso monete digitali. Tra ieri e oggi abbiamo avuto due dichiarazioni importanti: una è quella del numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon, e oggi quella del capo economista del gruppo Allianz, Mohamed El-Erian, che hanno espresso forti perplessità sulle valutazioni della moneta virtuale. C'è chi dice che questa, diciamo, è il classico esempio di come si possa creare una bolla sui valori di uno strumento, in questo caso il Bitcoin. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Queste le critiche, so già, e vedo molti messaggi appunto al 349-238-6666, che invece gli estimatori, i fan, i supporter, delle volte mi sembrano anche leggermente supporter ideologici del Bitcoin, dicono no, quello è il canale per destrutturare, scavalcare, aggirare il dominio della moneta fatto da banche centrali che la battono e la emettono, e da banche intese come banche d'affari che ne gestiscono i flussi. Il Bitcoin è lo strumento democratico per uscire dal gioco delle banche centrali, delle banche d'affari, e alcuni ci aggiungono pure Bilderberg, non ho capito che cavolo c'entri Bilderberg, ma insomma, uno dei massimi esperti di Bitcoin a livello mondiale, no scherzo, ne ha scritto molte volte sul Sole 24 Ore, è il vice direttore Alessandro Praterotti. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Allora, andiamo sulla cronaca e poi la valutazione. Che cosa è successo in questi ultimi giorni, visto che è ancora molto alto il valore della criptovaluta Bitcoin, ma è sceso da 4.300 a $3.600? Allora, diciamo così, da un anno a questa parte, grosso modo, era cominciata una forte preoccupazione delle autorità di regolamentazione, della vigilanza e degli stessi soggetti del mercato finanziario, come ad esempio citavi JP Morgan, Diamond, ma non è soltanto lui, davanti a una corsa che è una corsa ancora oggi di circa il 400% nel prezzo dei Bitcoin. 400% è considerato un po' troppo, per quale motivo? Andiamo per gradi. Le istituzioni di vigilanza lo considerano una bolla finanziaria non regolata, ne hanno paura che si diffonda troppo nei portafogli delle famiglie, degli investitori, un asset finanziario che però non è né vigilato, non ha dietro una controparte centrale, non ha nulla in questo senso, e allora cercano di regolarlo. Dall'altra parte ci sono le banche di investimento, i soggetti del risparmio investito, sostanzialmente chi fa investimenti in borsa, che lo vedono come un concorrente temibile. Per quale motivo? Se io sono il cliente di JP Morgan Asset Management, gli dico di investire i soldi e mi portano poi un rendimento che certo, è del 3-4%, io, il mio vicino di casa che guadagna il 400% con una cifra anche più bassa, dicono: perché non lo comprate per noi? E questo non lo possono fare, perché poi le società e i grandi operatori del settore finanziario hanno degli obblighi di legge, delle regole che gli impongono di investire soltanto su asset che hanno un rating, che sono in questo senso autorizzati poi dalle autorità, e quindi li taglia fuori dal mercato. Quindi in questo senso inquadriamo perché c'è questa grande ostilità da parte del sistema finanziario sui Bitcoin. Ma come dobbiamo porci noi? Allora, il problema è abbastanza complesso, perché malgrado io ho simpatia per tutti quelli che difendono il principio, l'idea filosofica della valuta digitale, è vero che nasce come alternativa alle valute tradizionali. Ricordiamoci l'anno 2008, crisi di Lehman, nasce insieme alla crisi di Lehman il Bitcoin, il sistema finanziario era completamente paralizzato, il mercato valutario nella tempesta. Una valuta svincolata completamente da tutti i fattori geopolitici o macroeconomici che erano in quel momento sul mercato era benvenuta, tant'è vero che parte, ma parte in sordina. Qual è il problema che è venuto fuori oggi? È di due ordini di cose. Primo, una valuta, per essere valuta, che caratteristiche deve avere? Deve essere una moneta di scambio. Uso ed utilizzo una moneta per comprare dei beni e dei servizi. Questo è la valuta. La valuta come logica, quello di lubrificare il sistema economico, di facilitare gli scambi, di rendere più economici anche il commercio internazionale. E questo era un po' lo scopo per cui era nato il Bitcoin. Ma quando noi andiamo a vedere che il 99% degli scambi avviene a fini speculativi, cioè per guadagnare e per diventare ricchi, allora uno si deve porre una domanda: è buona fede quella chi lo difende o difende un asset speculativo? Questa è la vera questione, perché se io ho una criptovaluta come il Bitcoin che cresce di valore costantemente, non avrò alcun interesse a utilizzarla per comprare beni e servizi, perché altrimenti rischierei di rimetterci. Perché se io oggi il Bitcoin vale $1,000 e domani ne vale 2,000, se io oggi compro un bene a 1,000, tra due settimane ci ho rimesso, lo potevo aspettare. Allora questo, però, attenzione, perché è importante. Questo fa sì che venga messa in un portafogli e conservata finché non viene il momento giusto per venderla. Ma questa è la morte dell'idea iniziale del Bitcoin. Il Bitcoin nasceva come valuta di scambio, non come valuta speculativa. Allora, dopo il traffico, vorrei capire se siamo nelle condizioni. Qualcuno mi ha scritto: siamo dopo 400 anni, tornano i tulipani. La spiego: la bolla dei tulipani si studia in economia come la più classica della prima delle bolle, i tulipani olandesi, che arrivarono a valere, un bulbo valeva il pagamento di 4 navi per andare a prendersi i bulbi di tulipano, poi tutto esplode lasciando sul lastrico i risparmiatori olandesi, e ogni volta che c'è una bolla speculativa, torniamo a fare l'esempio della bolla speculativa dei tulipani, perché fu enorme, e io potrei aggiungere anche la noce moscata un secolo dopo, insomma, quando il prezzo di un bene esplode e va completamente in bolla. La differenza, se posso permettermi, poi vorrei sentire anche Alessandro Praterotti su questo, che almeno il tulipano concretamente esisteva. Poi è chiaro che un bulbo di tulipano non poteva valere 4 navi commerciali e tutto il costo dei marinai, però c'era sto bulbo. Qui siamo di fronte a qualcosa di completamente virtuale, infatti dopo vorrei anche capire chi emette questo bitcoin. Altro problema, o meglio, su questa falsa riga è intervenuto anche il premio Nobel dell'economia Robert Shiller, che ha definito il bitcoin il classico esempio da bolla da esuberanza, o di bolla da esuberanza. Ti dicevo, se lo facciamo soltanto strumento speculativo, diventa questo. Dopo il traffico. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta, dunque, alcune risposte le do io a grappolo. Allora, quelli che investono in borsa non speculano come se le azioni fossero bitcoin, altri mi dicono siete dei difensori, anche l'euro è speculazione, altri siete difensori delle stampanti monetarie. Guardate, ognuno può, che producono iniquità e bolle azionarie, guardate, ognuno può pensarla come vuole. Ho solo detto che andate a leggere, ci sono dei libri bellissimi sulla storia della moneta, che tra l'altro è una storia anche italiana, visto che tra Siena e Firenze la moneta serviva per velocizzare ed era anche portabile. Poi ci fu il problema di come battevi il conio, non posso andare sulla storia della moneta, quindi quanti grammi di oro, di argento c'erano veramente, perché lì si andava a grattare. È una storia bellissima quella della moneta, però l'obiettivo qual era? Era dare la possibilità di avere un qualcosa di portabile, no? Che potesse permettere gli scambi in Europa al tempo in fase pre-rinascimento, diciamo facile e superficiale, ma è questo. E giustamente molti mi fanno notare che comunque la moneta si lega allo stato di salute, non c'è più la convertibilità nell'oro, Bretton Woods insegna, ma si lega allo stato di salute. Se l'Europa inizia ad andare male o alza i tassi di interesse, l'euro nel primo caso si indebolisce, nel secondo si rafforza e via così. C'è poi speculazione, quello che volete, ma c'è un legame con l'economia di quel paese. Io un paese forte economicamente che abbia una valuta che si deprezza in maniera sensibile non l'ho ancora visto, ok, se non per periodi e cose molto congiunturali, magari perché la banca centrale vuole alzare i tassi di interesse e allora la moneta si rafforza e via così. Il problema del bitcoin, e qui vorrei capire da Alessandro Praterotti, è che io non sono riuscito a capire chi lo stampi, cioè chi lo produca e che cosa rappresenti dietro di sé. Se poi invece mi dite che è un modo per fare speculazione pura, come Alessandro stava dicendo poco fa, e cioè io lo tengo non per comprarmi un computer senza passare o comprarmi una macchina senza passare dal dollaro o dall'euro, ma lo tengo perché penso che si rivaluti, allora non è più una moneta, è speculazione. Qualcuno mi scrive, allora meglio l'oro, almeno ce l'ho fisicamente. Io su questo sono d'accordo, almeno il lingotto ce l'hai lì, te lo guardi, te lo lucidi, e anche se il prezzo dovesse crollare lo mostri agli amici, magari ti manca un appoggio, ti balla un tavolo, qualche cosa ci fai con sto lingotto, nel senso, prima che si rivaluti. Alessandro, allora cominciamo dalla prima domanda, chi lo fa? Ci sono dei minatori, si chiamano così, miners, perché è un po' equiparato a loro. Bisogna tenere presente che i bitcoin hanno la particolarità di avere un'offerta limitata. Quando fu predisposto e elaborato il software per crearli, il creatore fissò la produzione massima in circa 26 milioni di pezzi. Oggi ce ne sono circa 16 milioni stampati, come hai detto tu, o coniati in algoritmi, io li chiamo così. Quindi c'è una scarsità, un'offerta che è definitivamente fissa. Noi sappiamo benissimo che questa è una legge economica, che la scarsità influisce sul prezzo. Se un bene è scarso, tendenzialmente il prezzo sale con il crescere della domanda. Allora, che cosa succede? Essendo un'offerta fissa, di fatto fissa, come poi è quella dell'oro, perché se l'oro non viene scavato e cercato, la quantità che esiste sul mercato è quella che c'è. Allora, chi ha ideato il bitcoin ha creato questa digivaluta con quale obiettivo? Offerta scarsa tipo l'oro, libera fluttuazione sui cambi normali, dollaro ed euro, hai creato una sorta di gold standard, di fatto l'hai ricreato intorno ai bitcoin. Allora, quanti se ne faranno? Ce ne saranno ancora da stampare, si calcola, ad esempio, che si potrebbe registrare ancora 7, 8 anni, 10 anni al massimo di estrazioni, poi finiranno, non si potranno più stampare. Il mercato finanziario, e qui ritorniamo nuovamente sul punto di prima, che cosa ha pensato? Di inquinare nuovamente un'idea che filosoficamente, e poi dico anche a livello economico, aveva, ha tuttora una sua logica, con i derivati, con gli ETF, cioè frammentare gli attuali bitcoin in piccole porzioni, crearci dei derivati sopra per aumentare in questo modo la liquidità e la possibilità di investirci sopra. Ma questo, ripeto, ha accentuato questa tendenza e vocazione, indirizzo speculativo. Se tu guardi i commenti di chi difende i bitcoin a spada tratta, e li capisco, diciamo chi crede, sono tutti che dicono io sto guadagnando tot, il mio portafoglio è questo. Ma non nasce per questo una valuta. Bisogna che qui cominciamo un attimo a ritornare con i piedi per terra su dove va la digitalizzazione dell'economia. Bitcoin nasceva per creare una moneta per il commercio elettronico, scambiare beni e servizi via internet, svincolati dalla fluttuazione del dollaro o dell'euro. Facendo così lo snaturiamo e diventa semplicemente il modo di diventare ricchi, sperando, con la speranza di essere ricchi rapidamente. Questo sta decretando, ripeto, la morte del Bitcoin. Oh, voglio essere molto chiaro su questo. Un conto è l'analisi che fa Platerotti su che cosa è diventato il Bitcoin, cioè non più moneta di scambio, analisi incontrovertibile con i dati alla mano, ma elemento di investimento speculativo. Come posso speculare sul prezzo del succo d'arancia? La gente può accedere a questo mercato perché non ha fondamentali da studiare e pensa che sia facilissimo puntare quei 100 euro, quello ma che infatti vuoi. Quello che dico io è che almeno il succo d'arancia, non voglio per cui è nato il Bitcoin, una poltrona per due, almeno il succo d'arancia si muove se c'è l'uragano. Detto questo, scusa, volevo concludere, il problema del Bitcoin qual è? Che alla base c'è una tecnologia che è straefficiente ed efficace, che si chiama blockchain. Non va confuso blockchain con Bitcoin, è una derivazione. Stanno nascendo una miriade di valute simili a questa qua. Questo sta creando i mille tulipani. Qual è? Che tu... Adesso ce n'è una che si chiama Paragon, fra l'altro questa è un'altra cosa veramente che è stata creata da due rapper molto famosi americani, fra l'altro, che addirittura è una criptovaluta. Se voi andate su internet troverete, stanno raccogliendo i soldi in queste ore, e sarà utilizzata per acquistare marijuana legale su internet. Allora è normale che si crea addirittura la valuta per la marijuana? Almeno non si fuma la valuta, intendo dire. Allora dico a tutti quelli che mi stanno scrivendo che avete paura di Bitcoin, bene, bisogna comprarli, sei ignorante, beh, questo lo sappiamo, non c'è notizia che io sia ignorante, visto che siete tutti preoccupati è l'occasione giusta. Guardate, uno può fare quello che vuole. Basta non dire, ho preso una fregatura col Bitcoin. No, io mi ricordo ragionamenti analoghi anche ai tempi della bolla internet, le .com, che io mi chiedevo banalmente, ma che cosa fanno questi per valere così tanto? Ma ripeto, ognuno può fare quello che vuole, e quindi se uno vuole investire e speculare sulla crescita del Bitcoin lo faccia. L'unica cosa, qui attenzione, il problema del Bitcoin, oltre alla speculazione, è l'anonimato. Non si può garantire l'anonimato laddove girano i risparmi o gli investimenti. Se tutte le piattaforme che permettono il trading Bitcoin garantiscono l'identificazione di chi fa queste operazioni, il Bitcoin muore, nessuno è contro il Bitcoin. Allora, grazie Alessandro Platerotti per quello che ci ha spiegato. Vedo anche che qualcuno mi dice, guardi che anche la Repubblica Serenissima, non solo Firenze e Siena, avevano le monete. Sì, ho fatto l'esempio, sì, che ma non l'Italia, il computer. L'Italia fu il primo paese, le varie nel pre-rinascimento, se non ricordo male, le valute veneziane, dal Ducato al Matapan, detto anche Matapan, il Sodro, l'Ira Tron, il Ducato, ma vogliamo fare una puntata su questo. Dai, grazie Alessandro Platerotti. Grazie. Ed è veramente tutto, Bitcoin o non Bitcoin, ripeto, non abbiamo nessuna paura, chi vuole investire e ritiene che sia un ottimo strumento per investire, continui a farlo. Noi abbiamo il dovere di spiegare perché il prezzo sia passato da 4.600 a 3.600 dopo essere andato da 600 dollari a 4.300 dollari. Ci risentiamo domani per un'altra puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24. Libera la voglia di fare.